Dunque, claro, non so se ti sei informato quanto potresti pagare in base a questi quadri, ma a me mio socio non mi ha fatto un conto, non era solo 65, cosa devo pagare io? Questo questo sacrificio logicamente andrà a buon fine, compreso? Sì, a buon fine, li rivocchi i redditi, come ti hanno fatto con i finanziamenti dei partiti. La Lega, che ci hanno preso gioielli, diamanti e cose fare. Purtroppo già, purtroppo ce lo stanno dimostrando, stanno tirando l'acqua proprio al loro mulino, capito? Ma, come dice, speriamo in bene, va, speriamo che non succeda qualche fatta tranca, speriamo bene. Poi già, ti lascio che siamo pronti con la carica, dai. E anche io vado a fare carica, dai, ci sentiamo, casomai. Ci sono persone che se devono vendere loro per campare, ci sono persone come nei partiti che si rubano un pareggio, si rubano pareggio di ingotti d'oro con i soldi degli altri, vabbè, lasciamo perdere. Io sono gente che si vende loro perché non c'è più il suo. Sì, lo so già, lo so, c'è gente che si sta vendendo anche la casa perché hanno debiti, perché hanno fatto degli investimenti e che cosa, e adesso stanno tornando indietro. Comunque, tiriamo avanti, va. Se coincide più tardi, già. Vabbè, buona carica anche a te, ci sentiamo dopo. Canta tu, non ti dia a te, aiuto, ci stai, andiamo. Giù da gra. No, no, no. Ho capito, scusami, sono entrato perché come anche io ho detto, ma non avrei sbagliato frequenza, no? Beh, io non capisco quanto io qua. Vabbè, adesso mi è male. Aspetta, guarda così, guarda se va meglio. Ora, ora, ora. Aspetta, ma io voglio il microfono da dentro le tonsille. Aspetta un attimino, aspetta. Guarda un attimino, se è meglio così. Ora, ora, ora. O così, uno, due, tre, uno, due, tre, trovo. Ma se mi ci vuole un'altra prova, può anche andare, ma non parli, ma è una papera. Allora dirò, dirò. Adesso ho preso un altro microfono, se mi dà il tempo di saldargli cose, devo fare un'interfaccia, dopodiché devo un attimino di adattarlo. Ok, va bene, dai, ma sono qua. Poi se Claudio deve confermare, io non lo sento bene, Antonio, Cla. Poi non lo so, boh. Fai il 2S. Dai, io non ho il panino, poi riprendo. Cosa qua, scusa? Se metti il 140 sicuramente lo senti meglio, io lo sento bene con 140. 140 è meglio. Tu lo ascolti meglio con 140. Però si sente un baracchino. Ma anche con 140 lo sento male, claro. Perché se ti ascolto bene, scusa, lo sento male. Perché io sono con 140. Continuate, ciao Antonio, ciao, ci sentiamo dopo se coincide. E a dopo, cazzo. Che? Avanti già. Ciao Luca, ciao anche a te Grode, ciao Claudio. Kappa, doppio rum. Luca, ti stavo ascoltando. Ma hanno fatto la bernacchia, bastardi. Allora io, guarda, ti posso dire che mi diverto, credimi. Non si code? Ci sono... Attimo già. Amico, che cazzo? Non c'è niente qua, dove cazzo sono io? Dimmi, stavi dicendo già, mi stavi ascoltando? Posso dare anche il mio parere, la voce è abbastanza tonata. Quando hai fatto gli acuti, un po' hai... sei uscito un po' fuori, però nel complesso la voce è abbastanza tonata, c'è poco da fare per me che da dire altre cose, è abbastanza bella la voce. Beh, vabbè, ma io guarda, aspetta, eccoli, date. Vabbè, ma io ti dico qualcosa, mi diverto lo stesso, non un problema. News, ecco, ascolto. No, Viola. Già, non me la fotti nuda, ripeto, io mi diverto, mi passo la serata, ammazzo il tempo e per me va anche bene, guarda. Beh, è un modo di divertirsi, certo. A me mi diverte facendo la karaoke, per dire. A casa qua è un karaoke generale, qua Manuela sta sempre cantando, Marco lo stesso. Poi vengono le amiche e si mettono a cantare al karaoke e qualche volta cantiamo anche i Liliani, ma la maggior parte delle volte è sempre attaccato per loro e quindi a voglia che c'è nemico. Domenica se scendiamo in campagna lo attacchiamo, gli mettiamo l'impianto delle casse e cose. E c'è una cosa bella come ho fatto a Capodanno, sono tutti divertiti. E mi hanno detto che un Capodanno così non l'avevo mai passato, troppo divertente. Io canto in questura. Questura canta, perché c'è un qua. E allora, perché sono un qua. Ciao Luca, salve a tutti. Guarda me. E vabbè, lui va, purtroppo. Usi. D'accordo. Facci sentire le canzoni. E chi? Anche adesso sta casa lì, ce la canta una canzone. Quella è la Falcone. Io no. Aspetta com'era quella che faceva lui, che cantava lui. Non mi ricordo più me adesso. Faceva troppo ridere. Quello di Celentano. E mia mamma contro di me. Quello lì poi cantava. Aspetta. poi lasciami pensare. Yuppiù, yuppiù, yuppiù. Mi ha finalmente dove? Io per lui, io per lui, così canta. Fabri, stai cantando per non fare quell'apparecchio, perché lei si troppo assillato stasera. Hai la voglia di richiuderlo, di la verità. Certo, è una canzone di quel di Fabrizio, delle canzoni di Paoletto, che adesso amore. Allora, i più quotati erano Mascherato, Fabrizio, Alessio e poi chi c'era? Ce n'era un altro, ricordamelo, Roberto, come si chiamava? Guarda che non è molto contatto, più che altro a me mi faceva scusare, cioè diceva il numero di telefono per farmi, non importa che c'era, cercava sempre a me. Poi un giorno addirittura la presentò, c'era la pietra con Stefano, che ci perduto, una poi si è passata pure Samantha, tu Samantha, brutta bagata, l'ha detto, oh guardi. Una volta che era stato come orgasmo andava a spiccare la mente, senza orgasmo. Guarda che da poco vi d'accordo mi da Ottavio, lo dico di Ottavio, cosa faceva il caso di Trodi, li faceva in diretta, l'ho visto la settimana fa, stavano da Diano a Tinino per parlare con la storia di Giuseppe. C'è stato, hai visto dove c'è il circolo, il tuo circolo, e tu dico cosa vuoi tu al circolo, questo è qui, visto se è andato, ho detto, dai, mi ha chiamato la bettola, me l'ha chiamata. Ottavio non era verdurai. Ah, non era verdurai, Giulia. Ottavio sarebbe abita su dopo Lucca. Ah, con la bimbo, pensavo che, poi stava, non so se aveva venuto tutto, non ho capito. Pensavo che non stava, cioè che era c'era stufato magari, invece ho visto che tranquillo, sempre uguale la verità, non è invecchiato niente. Sì, sì, a sé. È sempre uguale, non è cambiato nulla, guarda, come da 6-7 anni fa non è cambiato proprio niente. Era anziano, non è che c'era più di 60 anni, eh. Sì, molti. Sempre uguale, sempre uguale. Ha fatto ridere, mi ha fatto, gli ho detto guarda che la bettola, ha detto, questo l'hai chiuso, ha detto se vai la bettola di finocchio, se può compenso male, gli ho detto, no, è per me. Barone giallo, barone rosso, ti ricordi? Barone giallo, non l'ho più visto, e però il fratello sì, il fratello era in pratica di barone giallo, era l'ex cognato di Giovanna, c'è il cognato a far culo a me, l'ex socio di Giovanna. Il fratello, lo sai che vendeva, sono quasi precisi, vende scarpe tuttora, e c'era il figlio che parlava per anche i tradamenti, in via Grausci. Sì, sì, me lo ricordo. Noi una volta avevamo trovato con Antonello Lucifero a via Sorso, esattamente, quando c'era ancora Palmieri, però ti parlo. Sì, vabbè, Palmieri ormai è sparito un po' di tempo, sarà forse 4 anni, una cosa del genere. Palmieri, quello del Ferramenta. Palmieri, 4 anni fa che sono andato da lì, da Via Sorso, cioè non da Via Sorso, dalla fine di Via Sorso, là, ancora via Giovanni Pascoli, che non c'è più. Via Sorso è quella lì, non è molto prima della fine. Rimane quasi alla fine, ma non più che alla fine, dopo c'è l'Utica, ci sono altri negozi, non è che... E comunque l'abbiamo trovato lì da Palmieri, fuori, stavamo parlando, abbiamo detto, bella parte, non te lo dimentichi, no, mia moglie non ne vuole sapere, questo e quell'altro, non, dice io già per me, ma mia moglie non vuole sapere. Io chiamavo Federico di Babbasole Giallo, lo chiamavo, non parlo di Babbasole Giallo. E poi c'era Spacca Mattoni, che lo chiamavano Spacca Mutando, te lo ricordo per farla girare. Sì, lo ricordo. Così c'era cioè l'altro non si facciamo un figlio, se non mi ricordo male. Se non mi ricordo come si chiamava quell'altro CB che abitava vicino a Mario, a Mario Maggio Maria, e abitava in via Fabio di Giulia, c'era due figlie, c'era, te lo ricordi? No, non ce l'ho presente chi sia. Mio vicino c'era anche coso, come si chiama? Ma il genero di Aquila di Gnonio. Ah, sì, vabbè. Quello lo vedo ogni tanto, cioè adesso è uscito, perché prima l'avevo visto prima diventava violento. Ma poi dopo diventato violento mai uscito un dono. Ho capito, il pinguino. Il pinguino in pratica è il cognato di. L'ex cognato di cosa? Di Roberto Finna. Fa l'autista, fa, è venuto anche da noi una volta con il camion. Sì, fa l'autista del padre adesso, cioè usa il camion del padre per portare l'acqua. No, portava il camion grossi, tre assi mi pare, roba così, che portavano merce, no, acqua. Poi non lo so, tempo fa e ti parlo, non adesso. Sì, prima di finire dentro, sono aggazzato da voi. Mi piaceva la bella vita, le bandolacche polacche, logico che... La voce in tanto si è fatto inchiappettare una gazzata. Capito? Già non era salvo il cervello, ma si è fatto inchiappettare. Chissà che ci ha servito un pochettino a mettere un pochettino il cervello adesso. Come Camino Centano, un'altra cosa. Camino Centano adesso è un luogo fuori, è tranquillo, sta bene... ho visto anche la tua vita. Guarda, ma boh, io non conosco questo Camino Centano, non ho mai sentito. Ah, abita via Sosa, in quella prima palazzina che c'è proprio dove sei, dove hai detto tu. Ah, boh, no, non ho mai sentito. Non ho mai sentito Camino Centano, non lo ricordo. No, ma con la casa la verità, poi chissà cosa casa l'ha abbigliato. Quando lo bevevo ci frequentavamo sempre, Gavino, io e anche, adesso non mi ricordo come si chiamava l'altro. E mi diceva sempre, Antonio, guarda, non frequentare quelle persone su così, in casa la buglia fa il duetto. Beh vabbè, succede. È raro umano mesto, perseverare su diabolico. Ehi, vabbè, ma io non è che... Già lo sai che sono una persona sempre tranquilla, a me io leggevo con la testa mia, non è che devo leggere con la testa degli altri. Ho 47 anni, grazie a Dio. E quindi soffro con chi devo frequentare. E se vedo che le cose vanno male, il figlio ce lo manda a fanculo, non lo chiamo più, non mi interessa niente. Capisco, perdo un amico che è finito in galera per le partite degli altri, capito? Per certe pezzerie. Quindi... non mi ha fatto proprio niente. E sono tutto da qua, grazie a Dio. Però hanno avuto problemi, io no. Beh, questa sera è al posto suo, pappa grappa. E vabbè, tempi passati. Ogni tanto si rivanga il passato, ma... sembra che parli di ieri, invece stiamo parlando di un bel di anni fa. Un bel di anni fa, quando tu abitavi ancora via Rizzino, allucinante, tutti al bar, tutti sotto al bar, un magazzino. Lì si stava bene, la verità stava veramente bene, ci siamo divertiti tutti, la verità, io so, tutti i CB che venivano a casa mia, per dire il circo di 14 era veramente bello, entravano tutti, ci divertivamo, non c'era uno che si lamentava, non bisticciava con nessuno, per dire, entravano tutti, andavamo al bar, che per dire, arrivava alle 8 e mezzo, alle 7 e mezzo, alle 8 di sera, andava alle 10 e mezzanotte, mezzo cotto, perché la verità era così, però sì, tutti quanti amici, non ci siamo mai bisticciati, mai con nessuno. Così anche la mattina, sa cosa, quando mi svegliavano alle 8 e mezzo di mattino, mica una cosa allucinante, che mi aveva lo stress, eppure altre fammi questo, altre fammi quell'altro. Mi divertivo, era un, come per dire, mi manca qualcosa lì, la verità, mi manca addirittura la massa dove abitavo lì, anche se era un freddo grande lì, perché l'inverno non ci potevi stare in quella massa al freddo che c'era. Poi l'appartamento più la massa da su così? No, la massa da proprio su, c'era un nuovo appartamento, la massa da su dove vuoi io dormi su. C'era un freddo cane, non te lo dico nulla. E poi veniva a cosa, mi portava il baracchino e guarda, ho detto, soldi non ne hai, non c'è problema, portami la frenè, portami la birra, non c'è problema. Però tutti i giorni la frenè, ogni giorno c'è la frenè e birra. Diciamo, un tavolo pieno di baracchini, ma solo di un ammacco di voce, di cosa era così. Poi a mettere da posto tutti quanti, ci voleva un mese, ci voleva. Ogni tanto ne portava uno, mi ricordo sempre per andare, ne portava ogni tanto, ogni settimana ne portava uno, e questo me l'hanno regalato, e questo me l'hanno regalato. Un giorno era venuto Piero Geppo, mi ha detto, questo partito di canale che ti ho dato, ho detto guarda, ho detto, me l'ha portato per andare, ho detto è bruciato, ma fuso era me. Lui dice, cazzo, questo lo sai che baracchino è? Ho detto no, perché non lo so. Questo è il baracchino di quello del ristorante 27 mega, tagliato funzionante, e se l'ha portato via, gli ha detto il prestito e poi non è più tornato. E te cosa vuoi da me? Io sto cercando, ho detto beh, ascolta, questo è il baracchino, tu qua. Restituiscilo e arrangiati, gli ho detto. E fuso. Telefono da me, e arrangiati il 22, non ne frega proprio niente a me. Vabbè. Io sempre di queste storie ne ci vado fuori. Una volta lo stesso a me mi avevano dato un baracchino, ho fatto scambio, boh, l'ho comprato, adesso me lo ricordo. E questo qui mi aveva detto che gli aveva prestato e lui se ne è padronito, non era più tornato e l'aveva venuto a me. Sì, c'è più di lui, era così. Quando hai fatto la cosa non ti risolva più, capito, fa finta di nulla e arrivederci e grazie. E vabbè, ma non si fa così. A me se mi prestano una cosa mi figge, lo sai, io ho paura di romperla, non vedo l'ora di tornare, e sono fatto così, ma purtroppo sono tutti uguali. Lo so, tu sei come me, sei di buon cuore. Quando viene una persona che non sa come fare, sembra che ti fa male il cuore, capito? Gliela presi per dire, poi magari te la buccia, voglio capirci. Vabbè, ti è successo. Me la giusto io, su di me, e basta. Capito? Io sono fatto così, come hanno fatto anche gli altri. Io. Cioè, non tutti così, la verità. C'è chi approfittava, che si pigliava per dire, mi ho bisogno di guardia, mi serve il baracchino, qua in radio, ho prestato, era bronzo. Stando la circolazione, si vedeva il baracchino, non lo vedevi più. Sì, è vero, non essere onesti quello. Dopo che ti fai il favore, ne approfitti pure. Con chi eri tu, Antone, nel canale? Con te, ma intanto c'eri tu. Non c'era nessuno? No. Vediamo se vuole entrare qualcuno, se Claudio ha finito di mangiare. Non è cattivo, no. Perché stava ancora mangiando, la vedi? Poi salutoni anche a te, ben sentito. Mi sono mangiato per il ravioli poco fa, già non te lo dico nulla, con gusto, con quel sughetto sopra. Perché a tanto ho mangiato veramente male, ha fatto, sembrava, il coso sembrava un po' cazzo, ma ci ho messo 10 minuti a mangiarmi i piselli, ci sono bevuto 2 bicchieri di birra giusti giusti e mi sono rimasto sullo stomaco, sono andato a lavorare. No, non faccio più così, piselli del genere come stamattina, ho fatto tutto il giorno a mal di stomaco, la crepare. Sai quando ho digerito, dopo che ho finito di lavorare, mamma mia. Non è voluto più a mangiare in presa, ma. Beh, certo, non ha più il tempo di digerire la roba. Le mangiate troppo in presa e te ne metto sullo stomaco, non al mare. Avanti, Sandro, con la buonasera di lui. Buonasera, signore, buonasera. Oh già, datemi una curiosità, poi ti dico cosa mi è successo. Quegli elicotteri modellismo con lo joystick e così via, che frequenza opera? E sono sui 46 e sui 27 MHz. Cazzo, non ci crederai, non ci crederai. Poco fa lo stavo dando una pulita, lo stavo a coso, l'ho appoggiato un attimino sul tavolo. Sono passato un attimino, non mi ricordo adesso che canale era, forse il canale alto, controllando un attimino le stazionarie e così via, perché è piovuto, tutto quanto. E mia moglie mi fa, dice, guarda sta cosa che sto partendo, sta andando. Probabilmente ce l'ha 27 e te lo fa. E molte volte si divertivano quando andavano in piazza di Signa a provarli, no? Passavano con la macchina, schiacciavano la porta a tegoliniare e l'apparecchio non rispondeva più ai comandi, caso che se il gaggi entra e si frabbinava. Così facevano con le macchinette, con tutto. Adesso ci sono anche 46 MHz di frequenza, però prima erano solo 27 MHz. Sì, zitto che ieri sera ha fatto danno lui. Capito? Ha fatto aprire, non mi ricordo se era un bascolante, cosa diavolo era, o quell'apparecchio che c'aveva in macchina, ma lo sa. Cazzo adesso è stato puro caso strano, oggi ero lì da Pomponio, no? Fare una pensione, ho tomato, parto, schiaccio perché adesso non mi ricordo se c'era Antonio Falchetto in frequenza, che cosa? Proprio vicino a questo cancello automatico, e si apre il cancello. Come schiacciato la porta? Invece io passavo vicino a un negozio che c'era via di Umberto, quando schiacciavo la porta perché senza lineare faceva squillare l'allarme. Io ho capito, eh. No, ma è puzzinoso quell'apparato, guarda, quell'apparato è troppo puzzinoso. Sì, tu ti lamenti. Tu non sai, è successo avanti a casa qualcosa di anni, perché l'ha raccontato lui. C'era un vizio Alessandro da quella giorno, diceva il tassì, passava in Cesare Battisti, c'era la banca, ogni volta passava lì, prendeva e modulava, cazzo, faceva scattare l'allarme, finché un giorno l'aveva tentato, senza provare che rientrava. Ora è passato, ha preso il vizio vicino pure e gli ha sparato. Sì, cazzo, addirittura. Quindi ha finito di modulare. Non c'è più passato in Cesare Battisti, no, Alessandro. Lo faceva per il gioco, lo facevano. Ogni volta che passava lì, faceva scattare l'allarme. Siccome voleva dal monito, dice, ah, tu sei. Ha tentato, tanto sapevano che passava abbigliato, ah, come è passato abbigliato e gli ha sparato in aria, non c'è più passato. Se non voleva sentire, non voleva bruciato. E ho capito, dai. Va bene, ok. Scusate un attimino che cambia un attimino, Cambia. Ehi, vabbè, comunque se non può farlo, sparare così. Comunque Alessandro usava un lineare a 500 e passa a watt. 550 c'è aperta, cosa 500 passa a watt? Ce l'hai 550 messo nel cofano davanti, invece ci sono una cosa già vale 750. Storie? Ehi, pompa bomba e pompa. Uno dall'altro, tutti e due li hai modificati. Facciamo la gara tutti e due perché ci va più forte, te lo ricordi? Alessandro mollava il lavoro per venire una media, non te metto. E allora si lo suonava. Rispondeva a mia madre, sono Alessandro, Antonello c'è, che sì, Antonello è a casa. Sono rimasto, cosa c'è Alessandro? Modifica il lineare, mi va zia, metti nel posto, modificare 3,100 m, devo uscire più forte di un fratello, ha giurito, alle 8:30. Ti giuro, guarda, non mi dormivano, sia lui sia Gesuino. Ma cosa si l'altro era? C'aveva l'antenna con il radialista, non ricordo, era un tassì, come la manto, poi in piccolo. E che era sul lato male, lui fratello. Era bello sul lato male, tutti e due. Mi è toccato amplificare 550 metti, e tirava fuori 400 qualcosa, tirava fuori. Era una cosa da non credere. E poi un giorno era talmente cotto, stava rientrando da lui, stava rientrando, figurati. Sentivo il bip e diceva, adesso fermo a casa tua, mi sono rotti, a palazzo che abbiamo, mi sono rotti i coglioni, vengo e ti ammazzo, non mi ricordo che cosa mi aveva detto. Tu sono tornato, ti ascolta la cosa, tanto che sei corto, ho detto, non ce la fai neanche a guidare, passa qui, la finiamo, ho detto, di non prendere il banco. Allora sono a casa mia, non qua, no, si è ritirato, mi ha macciato, è andato a ricorrere, e ha giocato il figlio, ha giocato il figlio, dove ci ho fatto, dice, ci sta dando Alessandro, ma sono in piedi, non è che sta calendo. La voce è bella, questa cosa c'è, che tu mi sei con il bimbi, mi sento bene, in piazza Castello, riesco a trovare, senza solamente a te. E d'accordo, io ho detto, se non ti cambio il baracchino, ho detto, tu sei proprio tu, ho detto, i colpi sono, dice, io se li tiene, cosa me ne frega a me. Ogni volta, non potevo sopportare, si dice, il bimbi contro tu. E poi un giorno, si è reso conto di cosa aveva fatto. Basta, c'è cazzo, quanto arrivi forte fuori, a parte di un muro, ma di tutto. E gli ho detto, per forza, ho detto, sono di fronte. Ma sembrava più vecchio delle stacchiavole da quanto ciucciava. Ma è vivo ancora, sì. Mi sembra di sì, non l'ho più visto la vita. Comunque mi sembra di sì. Ma perché gli era Giulio, qualcuno poteva bene, Giulio parli più. Io una volta, ma ti parlo di tanto tempo fa, l'avevo visto caricando piante alla serra che c'è di coso, di Flor Garden. Ci sono? Si sente, si sente che ci sei. Riprendi Alessandro. A me Alessandro Aquiladino, non ho spesso una sasquilla, Aquiladino mi faceva ridere quando dicevo che olio metti nella macchina tua. Olio F invece che olio L. Ok. Ok, allora. Ok, va bene. Va bene, popò. Ho cambiato la focaccia. No, va bene, va bene. Tutto a posto, esce benissimo. A parte che si è più basso, comunque esce bene. Sì, va bene, speriamo che non ci interessa niente, dai. Le signore non ci interessa niente, no? Voglio andare tranquilli, dai, questo è 48. Già me l'hai detto quel problema. Comunque sai cosa devi fare? Quando una di queste sega non c'è niente da fare, sali dopo la mezzanotte lì. Prendi e diminuisci l'amplificatore, lo metti a zero, tutti e due. Vedrai quando non vedo più niente. Che chiamano qualcuno? No, già arriveranno al momento che lo capiranno, se lo vogliono capire, o un po', capito? Già la capiranno, vedrai che piano piano capiranno. Io mi ho 48, omologato. Sai cosa faceva uno che conosco io, un tecnico? Quando c'era la fase di impianto centralizzato, prima smetteva le antenne, dopo una settimana neanche lo chiamavano a sistemare tutto. Ma perché inverti metti quella seconda al posto del primo, quella prima al posto del secondo. E il problema è risolto, non vedono più niente, sta tranquillo che non ti cercano nemmeno. Chiamano un tecnico, cambiano tutto. Già stanno girando. Io guarda Gianni, forse già l'ha vista dove c'ho l'antenna io, e c'ho proprio l'antenna centralizzata, diciamo, del palazzo. Ho fatto prove contro prove col 48, con l'altro, ai canali primo, secondo, tutti gli altri canali non faccio una grinta, ma sai cosa vuol dire una grinta? Non la faccio. E quindi è arrivato il giorno dopo controllino. Ci sono. Non so cosa stavo dicendo, perché mi ha chiamato mia moglie, ho risposto a lì, capito? Ma già ci sono, sono qua che vi ascolto, con le orecchie di Puercos. Mi prende lì. Mi sono entrato. Palla con me. Beh, me la stiamo facendo addosso, sono andato veloce. C'è anche Uslo. Che paese di nemico fiero, qui vicino, Ma è giocata, se butto Ugo, non ci ha messo manco l'antenna. Un'antenna sul tetto, Ho capito, si è messo il radio. E da Uslo ho detto, prima parlava un bel po' di persone. Sì, vabbè, Uslo c'è rimasto Gianni, è stato 30, parlo due, poi c'è l'autista del tram, adesso non ricordo come si chiama, e poi c'è della strada, il maniaco, quindi non c'è bisogno di ricordare attivo, quello che abbassava come si chiama, la sbarra e si metteva nudo. E quello sta ancora entrando, ogni tanto ogni frega qualche antenna qualcuno, entrano ancora le antenne degli altri. E poi basta, non ce ne hanno altri. Avvicinate il microfono, che cazzo mi tocca. Ci metto anche così a parlare così. Guarda come. Insomma, è bene. Perché sono così questi microfoni, pur essendo amplificati, io sono abituato che i microfoni amplificati devi distanziare un po', no? Ma che ti ha portato quel cavolo di Saturnecco? E perché questo qui, cos'è? Saturnecco, neanche io l'ho usato. Ci aveva nulla lo Saturnecco, ci aveva... Tu dico ti metti a via. E microfono, no, il microfono può essere, perché non c'è la ricezione. Quindi l'attacco delle cuffie. Perché che è chiuso ci aveva. Spattolandolo probabilmente l'ho chiuso, ma ero sicuro, convinto che non ne avevo toccato le feghine, eccetera eccetera. Uso molto lo squelch, ci vuole avere lo squelch, era a posto, quindi ho detto no, c'è qualche cosa. Avanti, chi è? Sarà Franco, mi dite come sta andando di radio, grazie. Bassino, bassino fa. Bassino, sì, qua. Anche adesso, forse anch'io ero lontano, ma ho fatto una regolazione, però così va meglio? A voglia. Adesso va bene, dai. Buonasera, comunque avanti adesso. Ciao Albatros. Ciao Antonello. Sì, ero troppo lontano forse, adesso un pochino più vicino dovrebbe andare bene. Confermi Antonello che sei in un po' situazione. Sì, non è tanto alta la radio fra comunque. Oh, per bacco. No, perché manda la parata dicevano che era, vabbè, forse bisogna cambiare un po'. Comunque così va bene? Così va meglio. Si sente che il cugino del mio con microfono normale, ma già si sente. No, non è normale, è amplificato solo il tuo basso almeno. Però non aumenta questo, di là, sennò poi va male. Ok, va bene, grazie, buonanotte a tutti, buon proseguimento. Ciao, ci sentiamo, buonanotte. Ciao, alle prossime buonanotte. Stavamo dicendo. Mi lamento. Ma qui allora, la verità. Comunque erano bei tempi quelli lì. Potevi scegliere il canale che volevi, dopo vedevi che c'era gente seria, ti fermavi. C'erano tutti sotto i 14 venivano, tutti, la verità, a parte quelli che dei 15 che venivano a lamentarsi, che erano nero che abbassa un po', mi si aspettava su 15, su 15 sì. Vabbè, quel primo c'avevo quelli 600 watt, glielo sai col tempo, quindi... andavo a mattare, usavo il BV 2001, poi sono regalato e quando è successo che ho dovuto cambiare casa, non ho fatto la linea presa, l'ho regalato e basta. io mi sa che mi addormento, va? Ti auguro tutti buonanotte. Sandro, riprendi, io me ne sono andato a nonna. Ok, dai, ciao. Ok, anche io mi sto ultimando, alcune cosette. Vabbè, ciao, già, ci sentiamo alle prossime. Dai, che stacco anche io, che mi devo ultimare le cosette. Ciao, vai. Ci sentiamo alle prossime. Eia, ciao, sa, ci sentiamo alle prossime. Ciao anche a Gianni, buonanotte con tutto, tanti che ti sentiamo domani.